change my mind. You know when I change my life. Time goes by, my time goodbye. Come trucioli di segatura, a volte la tua assenza è veramente dura. La tua foto parla come fosse la misura che divide il sogno dalla spazzatura. Sulla carovana di un letto, di problemi, di un tetto, di pensieri. Sulla meridiana che scandiva il nostro tempo, c'è vento, c'è polvere, c'è l'impronta di quelle frasi povere. Il bavaglio di un vivere sbagliato ci ha soffocato e dopo allontanato. Io lo so che viviamo a 100 passi, percorriamo strade sperando di incontrarci. Perché il sapore delle cose condivise è come un sole, una pallottola nel cuore. Ma fino a ieri non capivo che la vita mette alla prova, si cambia direzione. Portata fra di voi, non mi sento una carogna. Cambia la mia mente, cambia quella gente sulla carovana. Adesso indifferente, perdo il mio contatto perché il lavoro fa diventare matto e a volte vi imbarazzo. Se piango non serve, il paese è troppo piccolo. Se mi confido cado nel ridicolo, in mezzo agli altri, povero di spirito, nella solitudine del buio di quel vicolo. Ma non tutti hanno avuto il benvenuto, e se l'età non c'entra dipende dal vissuto. Si sta perdendo la voglia di parlare, gli attimi di vita, uno straccio di giornale, e la mia assenza è ferma al capolinea come una pagina troppo ingiallita. I'll go through time and I will change.